Mafia NC 2010, ritorna più infottato di prima. Accendi lo stereo, OR Ganga sta in cima. Esosta. Questa è l'Italia in cui ti trovi, c'è merda dappertutto e non ti muovi. Io non mi muovo, aspetto un po' da fuori. Io non sarò mai ricco come c'è chi gori. Questa è l'Italia in cui ti trovi, c'è merda dappertutto e non ti muovi. Io non mi muovo, aspetto un po' da fuori. Io non sarò mai ricco come c'è chi gori. Questa è questione di rispetto, la porti in cuore e chiusa al petto. Degli insulti altrui io me ne sbatto. Io scrivo e vado avanti, a faccio chi pensa matto. Accusato per questi fatti, loro pretendono farmela pagare coi ricatti. Adesso sono incazzato, perché mi hanno truffato per colpa dello Stato. La voglia c'è di lavorare, ma il mondo sta per crollare. L'economia va avanti, mentre tutti per arrivare a fine mese ci fanno il culo tutti gli istanti. I politici scrivono santi, ma io li sparerei in testa a tutti quanti. I parlamentari fanno scene, i pregiudicati scontano le loro pene. I carcerati continuano a alzarsi le penne. Sparano e corrono peggio di Varenne e di Adrian su Cayenne. Questo mondo è pieno di pagliacci, qui conti solo per i soldi che cacci. Questa è l'Italia in cui ti trovi, c'è merda dappertutto e non ti muovi. Io non mi muovo, aspetto un po' da fuori. Io non sarò mai ricco come c'è chi gori. Questa è l'Italia in cui ti trovi, c'è merda dappertutto e non ti muovi. Io non mi muovo, aspetto un po' da fuori. Io non sarò mai ricco come c'è chi gori. L'Italia è come la Ferrari, aumenta tutto e crescono i salari. La benzina cresce al barile, questo Stato è proprio un porcile. Gli ospedali non sanno far niente, per questo che ci muore tanta gente. No, infortuni sul lavoro, no, alla prostituzione. Questa Italia è uno Stato in disoccupazione. La politica è come un Robin Hood al contrario, ruba i soldi ai poveri per darli a milionari. La politica con me, ma è peggio di questo mondo. Io servo, tu padrone, io povero, tu riccone. Dimmi cosa ne pensano le persone, tra me e la politica non c'è proprio paragone. Entro dopo un po' di assenza, a provargli una raffineria, ricordati la mia residenza. Questa è l'Italia in cui ti trovi, c'è merda dappertutto e non ti muovi. Io non mi muovo, aspetto un po' da fuori. Io non sarò mai ricco come c'è chi gori. Questa è l'Italia in cui ti trovi, c'è merda dappertutto e non ti muovi. Io non mi muovo, aspetto un po' da fuori. Io non sarò mai ricco come c'è chi gori. Un ringraziamento va a Chiuso per avermi aiutato a registrare questa canzone. Ah, bella mafia, ah. Raffineria nel posto, nel giro più losco. Non mi trovi mai nascosto, un pezzo in pista per concludere sto pezzo. Zio mi puoi chiamare mostro, ah. E lo sai che sono il più stronzo, ah. Necessitiamo di questo cazzo di rap.